I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Siamo entrati nella settimana della legge di stabilità, anzi, a dire il vero, oggi potrebbe essere il giorno clou della legge di stabilità. Governo e ministeri si incontreranno per mettere sulla bilancia le misure che si vogliono adottare, i relativi costi e le risorse che ci sono a disposizione. La manovra per il 2016 arriverà giovedì prossimo, il 15 ottobre, il giorno in cui si riunirà il Consiglio dei Ministri, approverà il testo sappiamo sarà poi inviato sia alla Commissione Europea sia al nostro Parlamento. Che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, alcune cose già le conosciamo, anche se magari non conosciamo tutti i dettagli. Partiamo dalle famiglie. Arriverà di sicuro la soppressione dell'imposta sulla prima casa, che a quanto pare favorirà proprio tutti, compresi i proprietari di prima casa di lusso o addirittura di castelli se vengono utilizzati come abitazione principale. Sempre più in forse invece sembrano le misure per introdurre il pensionamento flessibile, ritenute troppo costoso e probabilmente anche poco gradite a Bruxelles. Qualcosa arriverà per i lavoratori autonomi con le partite IVA, con le correzioni al regime fiscale per i piccoli contribuenti, mentre per le imprese si avvierà la riduzione della pressione fiscale, forse anche con il taglio dell'aliquota IRES, come ha più volte detto Renzi. Ovviamente in questo caso è cruciale il tema delle risorse, potrebbero servire 3-4 miliardi di euro, forse anche di più, molto difficili da trovare, anche perché in questo cantiere ancora aperto il grande assente sembra essere proprio la spending review, i tagli agli sprechi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Dopo 10 anni costellati di crisi finanziarie, tracolli bancari, la più lunga recessione globale della storia, il premio Nobel 2015 per l'economia non poteva che andare a uno studioso di consumi, povertà e welfare. L'economista Angus Deaton è nato ad Edimburgo e insegna ora a Princeton, negli Stati Uniti, il paese che ospita più accademici stranieri a livello mondiale e che anche per questo si aggiudica ogni anno la gran parte dei premi Nobel. Il Nobel 2015 è stato assegnato a Deaton per i suoi studi su 3 aspetti dell'economia, come i consumatori distribuiscono la spesa su prodotti diversi, quanto di ciò che guadagna la società viene speso e quanto risparmiato, qual è il modo migliore per valutare e analizzare il benessere e la povertà. Deaton ha realizzato un modello di domanda quasi ideale che serve per stimare come la domanda per ogni bene dipenda dai prezzi di tutti i beni e dal reddito dei singoli individui. Il sistema è diventato uno standard per la valutazione dei diversi parametri economici ed è usato ancora oggi per valutare l'efficacia delle politiche economiche dei governi. Il professore ha anche formulato quello che è noto come il paradosso di Deaton, basato sull'osservazione dell'eccessiva regolarità del consumo di fronte a shock inattesi del reddito permanente. In sostanza, oltre una certa soglia di reddito, l'attitudine ai consumi non cambia. Nel 2009 Deaton ha scoperto che oltre la soglia dei $75,000 la felicità delle persone non aumenta perché diminuiscono i desideri da pagare. I modelli matematici non mentono, ma vista la congiuntura ancora debole e l'esercito di disoccupati, soprattutto tra i giovani, l'equazione da risolvere non è come spendere i soldi e vivere felici, ma come trovare un lavoro e arrivare a quella soglia dei desideri che per molti resta ancora un miraggio. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.